si insinuatore i capelli sulle gambe e nelle mani. Ah, olio, sudore, vai tra lo sfolgorante fragore dei volti. Una lunga nota scura, lunga, lunga, scura. Poi, velocissimo, un pesciolino. Grande, grande, grande! E poi disse stupito: ah, ah, carina! Questa canzone si chiamava È normale e lei è Nikonote. Chissà se si pronuncia Nikonote o Nikonote. Secondo me si pronuncia Nikonote, alias Nicoletta Magalotti. Il disco si intitola Emotional Cabaret ed è uscito il giugno scorso. Anzi, ringrazio l'ufficio stampa di Azzurra Funari che mi ha spedito il link per ascoltarlo. E magari dopo ne ascoltiamo un altro pezzo. Volevo raccontare qualcosa di questa Nikonote, che mi sembra un personaggio veramente coccico. Dunque, stavo appunto guardando il comunicato stampa. Cantato e recitato in varie lingue, Emotional Cabaret raccoglie materiali sonori dello spettacolo omonimo e contiene molte tracce della ricerca di Nicoletta Magalotti, prodotti insieme a Daniele Marfi e Alfredo Nuti, bla bla, con ospiti eccetera eccetera eccetera. L'artista italo-austriaco concentra lo sguardo sulle molte traiettorie della sua ricerca, sull'attitudine al frammento e all'improvvisazione che la sua pratica comporta, alla necessità della parola poetica. È un progetto molto intenso che passa da un'idea performativa della musica nella quale ogni brano ha un suo motivo profondo e le cover diventano riscritture. Infatti dopo ci ascolteremo magari una cover. Che ne so, Round Midnight potrebbe essere l'opzione giusta. Dicevo, lei è assolutamente coccica, per cui Nikonote, ti invito caldamente, se passi per Bologna, a venire a trovarci a Coxo Spaziale, magari fare un bel live. Quello potrebbe essere molto interessante. Ma torniamo a noi. Dunque, la nostra settimana è la settimana di Arte Fiera, è passata, ma prima che si concludesse, naturalmente abbiamo fatto lo speciale venerdì scorso. Domenica ho incontrato, sono andato finalmente a vedere Fruit, che era la fiera a cui tenevo più di tutte, e ho incontrato Anna Ferraro che ci ha raccontato come è andata, insomma. Eccola qui. Sono all'ultimo giorno di Fruit con Anna Ferraro, che posso definire la fondatrice di tutta la fiera. A che anno siamo arrivati, Anna? Ciao a tutti, al sesto. Al sesto. E naturalmente un'edizione più povera perché manca Obsolete Synth, questo bisogna sottolinearlo subito, ma ahimè, l'anno prossimo comunque ci saremo di nuovo. Scherzo, naturalmente. Fruit continua a funzionare benissimo, c'è un sacco di gente. Cosa mi racconti? Come sta andando? Ciao! No, come ciao? E cosa fai? Te ne vai? No, ho salutato il nostro sponsor che è Orplast, che ci ha fornito le shotwear che diamo all'ingresso come welcome kit per i visitatori. Che sono fantastiche, fra l'altro. Sì, sono carine. E poi ho visto che quest'anno avete lo sponsor anche di Pixart Printing, che tutti noi che facciamo grafica stampata conosciamo benissimo. Infatti devo dire che quando ho visto sta cosa ho detto, lo sconto mi sarebbe stato comodo. Sì, è vero, abbiamo anche loro, che sono anche un'azienda molto, cioè sono diventati più grossi in Italia. Bello lavorarci insieme perché sono molto aperti, cioè sono bravi nel marketing, insomma. Ci ha fatto piacere lavorare con loro. Ottimo. Io presumo che tu non abbia visto nient'altro attorno ad Arte Fiera e in giro, giusto? O mi sbaglio? Nient'altro. Perché ti volevo dire. Il video qua sotto. Ah, ok, ecco, perfetto. No, perché ti volevo dire che comunque Fruits, a mio avviso, rimane alla fiera sicuramente più fresca. Non voglio usare giovane perché giovane chi se ne frega, ma sicuramente più fresca ed entusiasmante, perché si vedono cose innovative, si vede dell'energia che invece, ahimè, ho visto abbastanza poco, sia ad Arte Fiera, che vabbè, siamo tutti dei vecchi tromboni, lo sappiamo, che ahimè ha Setup, che invece dovrebbe essere appunto la fiamma. Non siamo qui per sparlare di loro, bensì di parlare bene di Fruit. Cosa c'è di nuovo quest'anno di cui sei particolarmente soddisfatta? Quest'anno ci sono i due focus, che sono due sezioni presenti all'interno del market, sono due sezioni speciali, una dedicata al queer, l'altra dedicata alla moda, che presentano una selezione di pubblicazioni molto particolari, difficili da trovare altrove, oltre alla selezione appunto di pubblicazioni abbiamo anche organizzato una serie di incontri, tre dedicati al queer a cura di Saul Markadent e uno che raggruppava tutti gli ospiti, che è stato venerdì, a cura nostra, mia e di Gwendalina Piselli. E siamo contenti perché è stato un match azzeccato, cioè fashion e queer insieme, poi soprattutto la selezione che ha operato Saul sulle riviste di moda, sono ovviamente magazine particolari di ricerca, insomma non pensate a Vogue, no, certo. Non è quello, e hanno tutti un taglio che sconfina tantissimo con la sessualità, l'erotismo e anche una ricaduta sul genere, e quindi insomma l'accoppiata è stata proprio perfetta. Ottimo, fantastico. Senti, ma per un ignaro, una persona a cui piace vagamente la creatività e non sa come barcamenarsi, che come si fa con tutta la quantità di offerta che c'è in questi anni, sia nell'editoria che nella creatività, secondo te qual è la formula per addentrarsi in questo mondo che effettivamente rimane un po' strano, un po' lontano dalla gente comune, da quelli che vanno a vedere il Bologna? Addentrarsi per acquistare, dici? Per che acquistare, cosa conviene acquistare? Adesso l'acquisto secondo me è un atto d'amore che non è fondamentale, esatto. Non è tanto l'acquisto, ma in realtà l'avvicinarsi a una creatività di fermento, insomma. Ma nel caso dell'editoria io consiglierei di non avere timore, perché c'è un po' di soggezione tra il pubblico italiano, l'italiano è un po' intimorito dall'oggetto libro, sì, o magazine, non ha quell'approccio proprio sciolto che hanno visto altre nazionalità, insomma. Di perdere questo timore, perché sono tutti ragazzi simpaticissimi e non vi mangiano e non vi pungono con la siringa. Esatto, e poi sì, è insomma, di buttarci, sì, senza timore, ecco. Ma Fruit, tu continui a vederla come una fiera alternativa o state diventando mainstream? È una domanda. Alternativa a che cosa? All'editoria classica, allora, all'editoria tradizionale. Ah, l'editoria tradizionale. Beh, allora, siamo alternativi per forza, perché l'editoria tradizionale si trova all'interno di certi canali distributivi che sono appunto mainstream, e l'editoria che si trova qua è esclusa da questi canali. Però a parte questo, che appunto è la discriminante della distribuzione, non mi sento alternativa a nulla, cioè okay. Noi abbiamo sempre cercato comunque di essere un evento istituzionale, proprio perché queste edizioni emergessero e arrivassero proprio alla portata di tutti, senza essere ghettizzati nell'underground. E questo penso che essere a Palazzo Renzo aiuti molto, no? Rispetto ad essere magari a Vicolo Bolognetti o comunque leggermente più periferici. Leggermente più periferici, forse. Secondo sì. Te arriva non gente per caso qui ancora? No. No. Tuttora secondo te no, ok. Qualcuno magari sì, ma sono una minoranza. Il pubblico di Fruit è un pubblico che attende l'evento, che lo conosce, che magari non è mai venuto, ma l'ha seguito comunque dal web, dai social, dal passaparola. È un pubblico appassionato, cioè è un pubblico di nicchia. Tu adesso vedi tanta, certo, gente, ma siamo comunque una nicchia. No, chiaro, chiaro. assolutamente, siamo, ma è una, poi, nicchia, è una nicchia a te fiera, figuriamoci. Poi se il passante il entra, resto. Rimane affascinato. Chiaro, magari e si innamora. E si innamora, certo. E magari l'anno dopo ritorna. Però ecco, dire che entrino a caso, no. Non entrano a caso. Molto bene, io ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo e naturalmente abbiamo già le date per l'anno prossimo. No. Non ancora. No, come tutti gli anni mi dici non so se lo rifaccio o no. Esatto. Non so se lo rifaremo. Ormai questo sta diventando una moda, visto che anche la Vettese ha detto non so se ci sarò l'anno prossimo. Va bene, nel caso suo non lo so. Appunto. Però nel caso nostro siamo sempre appesi a un filo. Quindi Chiaro, anche perché. È per questo che non dovrebbe venire ogni anno, perché ogni potrebbe essere l'ultimo. Esattamente, lo so, adesso questa è una piccola frecciatina per me, ma sappi che quel tavolo vuoto l'anno prossimo sarà riempito, per cui farò. Grazie. Bene, grazie mille. Grazie a te Stefano. Don't know why. There's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is gloom and misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time. The time. So weary all the time. When he went away, the blues walking met me. If he stays away, all rocking chairs will get me. All I do is pray the Lord will let me. Walking in the sun once more. Can't go on. Everything I have is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Can't go on. Every everything I have is gone. Stormy weather says my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. L'angolo della menzione. Io le parte l'angolo della menzione, e questa invece era Valentina Matarozzi che cantava un tributo a Billie Holiday con Stormy Weather. Infatti parte appunto l'angolo della menzione perché il giorno di San Valentino, che è mercoledì prossimo, il 14 febbraio, Valentina sarà live al Bravo Caffè dalle ore 22. Mi raccomando, prenotate, perché i posti sono limitati. Troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i dettagli, per il link giusto per prenotare questa, il live di questa bravissima cantante. Coxo Spaziale. Creatività generica. Ed eccoci tornati a Coxo Spaziale, e oggi è venerdì, venerdì della settimana in cui c'è Sanremo, ma ce ne assolutamente freghiamo, e anzi passiamo già alla settimana successiva, dove appunto abbiamo San Valentino, di cui ci frega assolutamente anche poco, a parte il fatto di avere il concerto di Valentina Matarozzi al Bravo Caffè, che vi consigliamo di caldamente di andare ad ascoltare. E ieri mattina stavo ascoltando Radio Città Fujiko naturalmente in macchina, e ho sentito William Piana, il nostro fantastico DJ mattutino, che amante del jazz, che invece ci raccontava di una mostra alla GAMEC di Bergamo su Raffaello. Io devo dire che difficilmente mi muovo per mostre che non siano del contemporaneo, ma la descrizione e la passione con cui William ha raccontato di questa mostra, devo dire che mi ha convinto, e penso che entro maggio andrò a vedere Raffaello, soprattutto per il fatto che alcuni di questi quadri appunto vengono da altre parti del mondo che forse meritano di essere visti, anche perché io sono un fan di Raffaello. Si può dire un fan di Raffaello nel 2018? Probabilmente no. Forse, come state sentendo, vi accorgete che sto registrando questa puntata, per cui non messaggiate, perché non ascolterò il vostro messaggio. Questa è una puntata registrata e la sto registrando in macchina in questo momento. Questo perché quando Fedra non c'è e non abbiamo particolari ospiti, è molto più comodo per me comporre queste simpatiche puntate di Coxo Spaziale direttamente da casa, o comunque quando ho tempo. E il mio tempo in questi giorni è stato abbastanza limitato, infatti mi ritrovo appunto a fare questi sproloqui da solo in auto mentre vado a prendere mio figlio dalle elementari, che saluto. Ciao Nicola. Dunque, no, dicevamo, ritornando a noi, se facciamo, visto che la magnifica Nico Not ci ha mandato tutto l'album, ascoltiamo un altro pezzo. Tears you've shed today will pause, waiting until tomorrow. Dreams of what could be come close to me, timidly. minor players. Look for what you love for days to come. Harbor some. Let your spirit start the fight. At that time, round about midnight, every day is gonna bring some sad times. Every day is gonna bring some glad times. So take what you can of the glad times. Don't measure your pleasure in nickels or dimes. Look back on today and you'll know when you've been unhappy. Tears done chased away what might at night have a day. Let your eyes put out their light. At that time, round about midnight. Torniamo indietro nel tempo, perché invece nei meandri di Arte Fiera la settimana scorsa è successo questo. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Angelo Pretolani, abbiamo assistito a una tua performance per una persona e mezzo, perché c'ero io e c'era... esatto. Raccontaci che cos'era questa performance. Questa qua rientra all'interno di questo lavoro che sto facendo ormai dal 2008 su Facebook, che si chiamano, sono delle performance che vengono fatte ogni venerdì, minimali, molto minimali, che si intitola, tutto il lavoro si intitola Sotto il selciato c'è la spiaggia, e questa qua è una di quelle. E adesso ho preso questa, diciamo, chiamiamola fra virgolette abitudine, di chiamare un testimone, ovviamente sempre gente molto importante, a testimoniare la mia performance, diciamo. E in questo caso Stefano. Ha chiamato Giampaolo Bernardini, che è il ternano più importante dopo Chiara Ronchini, naturalmente. Bene, no, grazie, mi sento un po' un privilegiato per aver fatto da testimone a questa tua performance. Perfetto. Grazie. Lord, I love my man, tell the world I do. I love my man, tell the world I do. But when he mistreats me, makes me feel so blue. By my supper with me outdoors at the dark day, make black spots on my clothes. I don't have somebody, but I have a long, long way to go. Somebody like me talking happy, some call you snappy, some call me honey, all the thing. Got the money, some tell. Before speed. Now if we put them all together, makes me everything a good man needs. Happy, some colors. me everything a good man needs. E invece navigando nei meandri di Instagram troviamo lei, Haru Suzuki. Bene. Mi ricordo un po' coxo spaziale questo. Coxo spaziale. Dicevo, bene, grazie che siete ancora con noi. Il bello di avere un programma radio è che ti arrivano delle email abbastanza così, un po' originali. Ed effettivamente ultimamente sono diventato il target, anzi la nostra fantastica email coxospaziale@gmail.com è stata diventata il target di questa Broombrush Promotions, che è un ufficio stampa tedesco che promuove un sacco di musica reggae. Tanta di questa devo dire che non è che mi faccia impazzire, ma invece stamattina addirittura è arrivato un pezzo interessante, Dancehall Station, della casa discografica che l'ha prodotto. L'autore è un giamaicano che si chiama Dotta Coppa e il pezzo si chiama We Love Dancehall. Yeah. Dancers Asian. Kappa, you know, them know what we do. Everybody in a S roll out. Come and push the party sold out. If you love dance, I'll put your hands up. If you love dance, I'll put your hands up. If you love dance, I'll put your hands up. If you, we love dance. Everybody come out of them house. Celebration, hey, make we take a toast. Post, girl you look good in the clothes when you pose. The high grade just a swell up me nose. My youth now get jealous because your girlfriend beg me a one dance. I know nothing, we just a have fun dancehall. We love dancehall. Party tonight so we gonna the mall. Hop in the right, the vehicle now stall. Check the weather and the rain now. Me just drop all my rum glass. And me kush bring another rum flask. The high grade make me cross dog. My girlfriend say she can't stand me. Watch how me have a next girl up on me. She get red like say she take a sun bath. And a rum talk. We love dancehall. We love dancehall. Party tonight so we gonna the mall. Hopping on the right the vehicle now stall. Check the weather and the rain now. Everybody come out of them house. Celebration, hey, make we take a toast. Post, girl you look good in the clothes when you pose. The high grade just a swell up me nose. My youth now get jealous because your girlfriend beg me a one dance. I know nothing, we just a have fun dancehall. love dancehall. We love dancehall. Party tonight, so we gonna the mall. Hop inna the ride, the vehicle not stall. Check the weather, no rain, no fall tonight. I due minuti di Lonely hanno una durata percepita variabile. Godzilla sta tornando. È pazzesco! È pazzesso! Oh! Ma stai scherzando? Dai, 15 anni in su. Cominciamo con i più piccoli. Tra l'altro partiamo con un concorrente che viene da Lentini, che ha un cognome un po' strano, un po' diverso. Francesco. Buonasera, Francesco. Dove sei il più piccolo di tutti, se non sbaglio. Sì, è il più piccolo concorrente. Adesso arriva il microfono. Siamo pronti con la nostra regia. Ieri abbiamo avuto una gara piuttosto complessa. Cominciamo con i più piccoli. No, tra l'altro no, partiamo con un concorrente che viene da Lentini. Adesso arriva il microfono. Perché sino alla fine abbiamo dovuto fare gli esperimenti per arrivare poi ai finalisti di oggi. Buon divertimento a tutti, vai Francesco. No, a me no, vado alle robentose. No, a me no, vado alle robentose. E quante ne posso chiamare, eh? Una, quante dite? Quella piccoletta. La piccoletta, aspetta, sempre la più piccola. Attento, ecco, amore mio. Quante, ma? E quante, una. Piane due, piane tre, piane tre, quanto te pare, ma che io. Piane due, piane tre, piane tre, quanto te pare, ma che io. Piane due, piane tre, piane tre, quanto te pare, ma che io. Posso crederci. Quella non è una pianta qualsiasi. È Biollante. Biollante. Una pianta che ha uno spirito umano. Di 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, stiamo mettendo in replica nelle nuove puntate di Coxo Spaziale del 2018. Comunque, ieri mi è arrivato un po' in ritardo, ma meglio tardi che mai, un'altra menzione per uno spettacolo che c'è domani alle ore 21 come parte della rassegna teatrale Oltre l'Ombelico. Camere d'Aria e La Turba presentano Todo lo que no soy di e con Carlota Berzal. L'unica data per lo spettacolo è domani, l'unica data italiana per lo spettacolo è domani a Camere d'Aria, questa in via Guelfa 40/4 in zona Massarenti, ci specificano, questa alle 21 di domani all'interno della rassegna di teatro Oltre l'Ombelico, patrocinata dal quartiere San Donato San Vitale del comune di Bologna. Sabato 10 febbraio alle ore 21, Camere d'Aria in via Guelfa 40 presenta Todo lo que no soy dell'attrice, coreografa e ballerina Carlota Berzal della compagnia La Turba. Andata in scena in Argentina, Spagna e Cile, lo spettacolo affronta il tema della realizzazione personale e della dignità artistica dei giovani, sempre più compromesse da un sistema di mercato impersonale e dalla mercificazione del lavoro. La performer condurrà inoltre venerdì 9 febbraio, che sarebbe oggi, ovvero avrà già condotto il workshop di movimento espressivo La Bellezza en lo Deforme, focalizzato sullo sviluppo del movimento espressivo attraverso la creatività. Per cui, per ulteriori informazioni, andiamo a www.cameradaria.net, oppure domattina, da domani, troverete tutto su www.coxospaziale.blogspot.com. E continuiamo dunque con la nostra puntata, siamo ormai agli sgoccioli, ascoltiamo un ultimo pezzo e poi direi che ci salutiamo, anche perché purtroppo la parte teatro di Coxo Spaziale sta subendo qualche sacrificio per via della mancanza della nostra cara Fedra, che salutiamo. E anzi, mi scuso con lei per non averla chiamata durante la sigla, ma io sono un po' impacciato quando c'è da gestire il telefono, come forse alcuni di voi sanno. Questi erano gli Enemies con For Carla e l'album si chiama Variables del 2016 e direi che a questo punto, ebbene sì, dai, su, passiamo, visto che Sanremo, la penultima puntata di Sanremo sta per cominciare, facciamo anche noi il nostro piccolo tributo allo Stato Sociale ed ascoltiamo il loro fantastico pezzo. Devo dire che sicuramente sono la cosa più interessante di questo festival, che ho visto piuttosto poco quest'anno, ma prima di tutto naturalmente la voce del nostro carissimo direttore. Questo è stato Coxo Spaziale, io sono Stefano W. Pasquini e ci sentiamo venerdì prossimo. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fa il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato, e fa opposizione. E fa il duro e puro, e fa il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché? fai l'estetista e fai il laureato e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato e fai l'influencer e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per...